E adesso uno su 10. Avanti. Avanti mamico, ti ascolto. Chi sei per cortesia? Il tuo cosa hai detto? Avanti mamico, chi è? Attento mamico che ha fatto break su questo canale 10. Chi è avanti? Avanti chi è? Avanti l'amico, ascolti la città di Sassa di Sardegna? Break dalla Sardegna? Attento collega, se ascolti la Sardegna. Attento mio hermano, se ascolti la Sardegna. C'è nessuno su 10? CQ Sassa 17? Attenzione con le 10. CQ da Sassa, dice qualcuno? CQ la frequenza, CQ la frequenza, Sassa richiama Sardegna Recover. Ebbene, sassaresi, tutti morti sono. C'è nessuno su 10? Morti, ci siete morti? C'è qualcuno che è risuscitato? O sempre morti?